idea è un sassolino gettato nello stagno da parte degli amici dell'Ampi ATM di Milano, che 3 anni fa mi chiedono chi avrebbe di occuparti di Vittorio Arrigoni. Io confesso che conoscevo Vittorio solo da qualche titolo di giornale, però nel frattempo era cambiata l'attualità e mi sono reso conto che nulla di più forte, potente e necessario era quel suo manifesto, che sono quelle 2 parole essenziali e determinanti: restiamo umani. Mi sono reso conto dell'attualità e di quanto sarà attuale Vittorio anche per gli anni a venire e sempre. Così ho accettato questa sfida ed è diventato uno spettacolo a tutti gli effetti. Noi come radio, insomma, conoscevamo molto bene Vittorio perché ci faceva anche alcune corrispondenze ed è stato prezioso il suo lavoro anche giornalistico fatto da Gaza. Ricordiamo, sono 7 anni e mezzo che è stato ucciso. Tu prima dicevi e sono diventate estremamente di attualità le sue parole. Come è cambiato il mondo e perché c'è bisogno di, come dire, il pensiero e di persone come Vittorio Arrigoni? Perché Vittorio innanzitutto ha sempre declamato, cantato, esaltato un manifesto di pace. La volontà di Vittorio non è sicuramente quella di punire, ma di mettere da parte il prima possibile le colpe, perché la cosa più urgente è salvare le persone, evitare che altre vittime innocenti paghino le conseguenze dei più forti. È l'umanità che prevale nel messaggio e nel manifesto di Vittorio. Poi nel frattempo e più rapidamente il mondo, come è giusto che sia, è cambiato, ma credo che sia peggiorato, e questo fa sì che ci sia necessità di richiamare fortemente degli esempi che non saranno mai passati, perché quello che è accaduto prima di oggi, se ha conseguenze importanti, se ha da insegnarci qualcosa sul presente, non è mai passato del tutto. Anzi, questo ci serve come consiglio per il futuro. L'esempio di Vittorio traccia una rotta, una geografia della destinazione alla quale noi, secondo me, dobbiamo dare seguito, dobbiamo percorrere quello che lui ci ha indicato, lui come altri. E quindi il mondo in questo momento ha bisogno di figure a cui ispirarsi e ha bisogno di un rallentamento che è necessario per recuperare quell'umanità che stiamo disperdendo progressivamente. Domenica a San Giorgio di Piano ci sarà anche Gidia Berretta, che è la mamma di Vittorio. Tu hai avuto modo di conoscerla, di confrontarti con lei? Ho avuto occasione, sono felice di aver conosciuto Gidia, come sono felice di poterla rincontrare. Gidia è una persona, è una madre, il suo affetto, la sua accoglienza, il suo abbraccio sono qualcosa che scalda, è qualcosa che impegna, che ti dà un'ulteriore responsabilità. Raccontare la storia di Vittorio è entrare nella vita dei presenti, dei vivi, come la madre, in punta di piedi. Il fatto che sia presente Gidia Berretta, che Gidia Berretta abbia conosciuto l'evoluzione di questo progetto fin dalle sue prime battute, è stato un percorso emozionante e responsabilizzante. Il fatto che lei ci sia e continui ad esserci è qualcosa che ti dà una fortissima responsabilità, anche la consapevolezza di contribuire a una causa straordinaria che quella lei continua a portarla avanti attraverso il viaggio di Vittorio. Premesso che uno spettacolo è sempre meglio vederlo che raccontarlo, cosa ci dobbiamo aspettare? Quali sono i contenuti? Come si struttura? Si struttura innanzitutto con l'accompagnamento musicale di Emanuele Cappa, che è anche l'autore originale delle musiche di questo spettacolo, con il quale collaboro ormai da oltre 10 anni. Poi ci sono alcuni contributi video tratti dal DVD di Fulvio Renzi, con letture della stessa Gidia, Noam Chomsky, Don Gallo, Monio Vadia e Roger Waters. Poi ci sono i video e i disegni, perché io sono e rimango comunque un disegnatore, il mio linguaggio fondamentalmente è quello del disegno, ma sono tutti elementi che messi insieme contribuiscono a dare una forza di suggestione che permette al racconto di penetrare ancora di più nell'ascolto degli spettatori. Ed è un racconto fatto di un parallelismo, la mia vita semplice e fortunata con quella di Vittorio, molto più complessa, perché ha scelto un impegno che la maggior parte di noi non avrebbe la forza di intraprendere, e nel parallelismo io mi identifico, il pubblico si identifica nella semplicità della mia vita e viene messa costantemente a confronto con quello che invece è necessario attraverso l'esempio di Vittorio, cioè partecipare, non dico come ha fatto lui, perché questo è riservato a un coraggio che va al di fuori della norma, però se ognuno facesse un pezzettino in più con il suo impegno, probabilmente riusciremmo a compensare quel coraggio che a noi manca, che a me manca, ecco. Vittorio era un cooperante. Che impressione ti hanno fatto le reazioni al rapimento di Silvia Romano, che è una cooperante rapita in Kenya? Abbiamo visto reazioni molto violente anche al suo rapimento. occorre rallentare di fronte alle reazioni, come occorre rallentare di fronte agli eventi, in termini di opinioni, per carità. Non sono sorpreso delle reazioni di stima e di solidarietà, come non sono sorpreso delle reazioni di attacchi gratuiti. Finché è una conversazione social o da bar, tutto diventa un minestrone. Quando poi gli attacchi avvengono da firme importanti, e mi riferisco perché lo ritengo un attacco, o come dire, un articolo secondo me scritto male, ma che di fatto suona ancora più gradevole, mi riferisco al Caffè di Gramellini. Ecco, quando sono firme importanti che scrivono male certe opinioni, le conseguenze sono molto peggio che una conversazione da bar, perché hanno un riflesso importante, a volte positivo, a volte negativo, sulle persone comuni, come sono io, come siamo noi. Ecco, credo che occorra rallentare per riflettere un attimo, per non precipitare, come sempre più spesso accade, con un facile giudizio. Io credo che soprattutto un giovane può avere già la consapevolezza di ciò che sia giusto fare, e non credo che sia la strada corretta etichettare soltanto perché sei giovane e perché forse un giorno la vita ti insegnerà che è tutto inutile, come vorrebbe magari suggerire Gramellini. Io credo che occorrerebbe dare un po' più fiducia a un impegno come quello di Vittorio o come quello della cooperante che attualmente è stata rapita.